Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi propongo un libro che ci propone a sua volta una riflessione sull'Italia generata dal 150° anniversario dell'Unità. Questo libro nasce da un confronto tra due intellettuali molto noti, molto vivaci, che per la varietà delle rispettive posizioni danno vita a un dibattito molto interessante. I due sono Ernesto Galli della Loggia, storico contemporaneo, collaboratore del Corriere della Sera, e Aldo Schiavone, studioso di diritto romano, che hanno scritto insieme Pensare l'Italia, pubblicato da Einaudi, 144 pagine, 10 euro. Il libro nasce, dicevo, come un ragionamento comune a festeggiamenti quasi conclusi dell'Unità italiana. I due hanno in comune il mestiere, quello di storico, ma divergono su molti aspetti, il che rende appunto particolarmente interessante il loro dialogo. Un dialogo che si svolge su diversi temi: la crisi nella quale ci troviamo, le origini di questa crisi visto nel modo in cui si è sviluppato lo Stato unitario, il difficile rapporto con la modernità, il carattere nazionale, il rapporto tra cultura e politica. I due studiosi alla fine almeno su un punto concordano: che non si possa rinnegare l'identità e che se questa dovesse venire meno, qualunque programma, qualunque strategia per affrontare la trasformazione in corso sarebbe destinata a fallire. Ma sentiamo uno degli autori. Buongiorno a Ernesto Galli della Loggia. Buongiorno. Nel libro di cui stiamo parlando ci sono punti di divergenza e di convergenza con Aldo Schiavone. In particolare c'è una questione importante sulla quale divergete, che è l'origine della crisi. Per Schiavone una sorta di irrisolta guerra di classe, mentre lei sottolinea più volte la mancanza di una cultura liberal-democratica moderna alla quale facesse anche da contraltare una cultura social-democratica. Ecco, come spiega questa contrapposizione? Ma naturalmente la contrapposizione si spiega con il fatto che abbiamo idee diverse. Io posso spiegare la mia. Sì. La mia idea è che il vero punto di svolta critico è avvenuto quando l'Italia, dopo aver costruito dal 1945 all'incirca intorno alla metà degli anni 60 un sistema politico democratico, e invece dagli anni 60 in poi si è accinta a costruire una società, strutture sociali democratiche, cioè per esempio il welfare state, la cosa più importante, è lo stato dei diritti di cittadinanza. Allora è incominciata, diciamo così, la china che poi ci ha portato all'oggi, alla resa dei conti in tutti i sensi, di cui oggi facciamo le spese, perché abbiamo cercato di costruire una società democratica allargando i diritti ma senza badare alle compatibilità, sulla base dell'acquisto del consenso politico contrattato tra i due grandi blocchi di partiti, tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, non tenendo assolutamente conto della razionalità della costruzione, introducendo criteri democratici come per esempio nella scuola, nella gestione della scuola, dove non aveva molto senso, innovando all'insegna sempre, diciamo così, di una sorta di mitologia democratica e di rifiuto dell'eredità nazionale, innovando i programmi nella scuola ancora una volta, tutta una serie di sbagli che secondo me sono stati il frutto di una mancanza di cultura, chiamiamola liberal democratica, chiamiamola modernamente riformista, che appunto ci ha portato dove siamo. Ecco, un punto invece sul quale siete d'accordo è la iperpoliticizzazione della società italiana. Sì, la società italiana, a giudizio mio e anche di Aldo, soffre non da oggi, ma in qualche modo questo è stato un elemento del nostro DNA originario, di un eccesso di politica. La politica occupa troppo spazio, determina troppe scelte politiche, troppe scelte sociali in cui non dovrebbe avere invece lo spazio che ha, occupa troppo spazio anche nella struttura amministrativa. L'Italia è il paese in cui un territorio è governato da un numero di stanze, cioè appunto il comune, anzi la circoscrizione, il comune, la provincia, la regione, lo Stato, 5 come minimo, se non c'è anche magari la comunità montana, che non appare in nessun altro paese del mondo. Ognuna di queste istanze è un'istanza amministrativa, ma appunto in realtà è anche un'istanza politica, come sappiamo benissimo. Quindi il numero delle persone che vive di politica in Italia è superiore a tutti gli altri paesi dell'area culturale più o meno analoga a quella italiana. E la politica ha sempre poi nutrito le grandi ambizioni in Italia, questo è un'altra caratteristica nostra. Nel Novecento sia il fascismo, sia poi il comunismo gramsciano, sia a suo modo anche il cattolicesimo politico, ha sempre ambito a rappresentare un orizzonte assoluto di tutta la società, non si è mai considerato al servizio della società, ma anzi piuttosto la guida, la maestra, la pedagoga della società. In questo senso, appunto, c'è stato questo iperpoliticismo di cui parliamo nel libro. E del quale lei in particolare attribuisce parte delle responsabilità alla debolezza della società civile. Beh sì, dove la politica è così forte, le istituzioni sono deboli. E anche la società civile in genere è debole, lo era preliminarmente, però la politica riesce ad occupare i grandi spazi che ha occupato proprio perché in qualche modo davanti al vuoto, non è che lotta con la società civile, no, anzi spesso la società civile chiama la politica a riempire i vuoti, basti vedere appunto i rapporti che ci sono tra l'apparato imprenditoriale industriale italiano e la politica. Gli imprenditori italiani, ahimè, sono stati sempre in qualche modo molto pronubi, molto complici di questo iperpoliticismo, hanno sempre chiesto l'aiuto della politica, anche perché eravamo un paese povero e i paesi poveri sono dei paesi che guardano alla politica come una risorsa decisiva. Essere amici della politica può portare delle risorse. Uno dei capitoli più interessanti del vostro libro forse è quello nel quale discutete del carattere nazionale. Secondo lei esiste un carattere nazionale? Ma sicuramente, ed è una cosa importante, esiste nell'immagine che gli altri hanno dell'Italia, cioè che gli stranieri hanno dell'Italia. Sicuramente agli occhi degli stranieri gli italiani esistono. Poi noi sappiamo che naturalmente un italiano del Veneto non è come un italiano della Calabria, naturalmente, quindi ci sono tante tipizzazioni che però hanno evidentemente, se siamo così riconoscibili da fuori come un carattere unico, evidentemente ci sono molte sovrapposizioni fra questi italiani pur così diversi, c'è qualche cosa di molto importante che li accomuna tutti agli occhi di chi in fondo è il miglior giudice, cioè chi si trova a appartenere ad un'altra identità, ad un'altra cultura. Quindi sì, io penso che un'identità che è stata, un carattere nazionale che è stato molto, ci sono molti apporti stati storicamente a questo carattere che però oggi ha un notevole grado di omogeneità. Bene, grazie a Ernesto Galli della Loggia, autore con Aldo Schiavone di Pensare l'Italia. Buona domenica. Grazie. Curato dallo stesso Ernesto Galli della Loggia è uscito un libro che in qualche misura possiamo leggere anche come un'integrazione o un'esemplificazione del ragionamento che abbiamo ascoltato fin qui. Il libro si intitola Poesia civile e politica dell'Italia del Novecento, è pubblicato da Rizzoli, 396 pagine, 16 euro. Questa è un'antologia di poesie scritte dall'inizio del Novecento a oggi, scelte come espressione dello sforzo che la nuova nazione dovette compiere, uno sforzo dominato da due obiettivi, quello di realizzare la promessa risorgimentale e l'altro la necessità di comporre, scrive il curatore, in un risultato soddisfacente le molte e diversissime parti che giustapposte formano l'identità italiana. Insomma, Ernesto Galli della Loggia vuole qui offrire al lettore non specialista un quadro d'insieme, scrive, di quale sia stato il contenuto politico e civile espresso dalla letteratura poetica italiana nel corso del Novecento. E allora si parte con Pascoli, che introduce il tema dell'immigrazione, si passa a tanti altri, in c'è per esempio Pasolini che dimostra, scrive della Loggia, come il rapporto con la modernità da parte dell'Italia sia sempre stato un rapporto complesso. La modernità è stata vista come contraffazione, dismisura, smemoratezza, volgarità. E si conclude con una poesia recente di Gianni D'Elia, un poeta di Pesaro del 1953, che conclude appunto questo libro con dei versi ispirati al movimento dei girotondi. Un'altra antologia di poesie italiane, quella curata da Amedeo Quomdam, risulta Risorgimento Memoria, le poesie degli italiani, Donzelli, 326 pagine, 18,50 euro. Qui invece siamo in pieno Risorgimento, con versi spesso gonfi e retorici che sembrano, ammette lo stesso autore, ormai desueti se non morti per sempre. Perché allora riproporre questi versi? Ma perché una volta, scrive l'autore, furono intenso fuoco e aiutano ancora oggi, come poche altre testimonianze, a capire, a comprendere le ragioni di quanti vollero farsi protagonisti del Risorgimento e dell'Unità. Scrive Quondam, queste poesie sono state la voce all'unisono che ha dato parole e senso e scansione ritmica ai pensieri e alle azioni, ai palpiti dei tanti giovani che vollero farsi protagonisti del Risorgimento nazionale. Un lungo saggio introduttivo presenta dunque questa produzione, dove troviamo poi molti poeti, ciascuno con una scheda a sua volta, e alcune delle composizioni più rappresentative di ciascun autore, trovando anche delle firme celeberrime da Foscolo a Leopardi a Manzoni. Prima di passare la linea alle informazioni sul traffico, vi ricordo che oggi si conclude a Bologna Arte Libro Festival del Libro d'Arte, l'arte di fare il libro d'arte. Questa iniziativa è giunta all'ottava edizione e quest'anno, in occasione del 2200 anniversario della fondazione di Bononia, è dedicato al tema dell'archeologia. Oggi ancora incontri, ma soprattutto prosegue un ricco programma di mostre che si concluderanno nei giorni prossimi, e quindi chi sia interessato a questo tema sicuramente sarà il caso che faccia una scappata a Bologna. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di cinema, cinema e letteratura, e prendo spunto da un bellissimo testo dal quale è stato ricavato un bellissimo film di Roman Polanski, Carnage. Il libro si intitola Il Dio del Massacro di Jasmina Rezza, è una scrittrice francese che ha anche collaborato alla sceneggiatura di questo film. Il libro pubblicato da Adelphi, 92 pagine, 9 euro. Come forse avrete letto, quest'opera è un'opera da camera, nel senso che si svolge nel salotto Bobo, come dicono i francesi, borghese bohemienne, di una coppia che ne riceve un'altra per concordare in maniera molto corretta e garbata come gestire una rissa tra i rispettivi figli, dei quali uno ha dato un colpo di bastone all'altro sfasciandogli due denti. Si comincia dunque con le migliori intenzioni, animati dallo spirito più tollerante e politicamente più corretto possibile, ma ben presto la situazione degenera in una rissa collettiva con alleanze variabili, per esempio quelle tra gli appartenenti allo stesso sesso, che mettono a nudo la psicologia umana meglio di tanti saggi. La lettura è divertente e crudele e vi consiglio di affrontarla prima di vedere il film, che peraltro rispecchia molto fedelmente lo spirito del libro. Ma proprio del film adesso parliamo col nostro Luigi Paini. Ciao Luigi. Ciao Salvatore. Mi hai chiamato a parlare di un film particolarmente buono, particolarmente interessante. Un film che ti fa dire veramente per una volta viva il cinema. E la cosa è impressionante perché in realtà a prima vista parebbe non essere cinema, perché parebbe essere semplicemente teatro filmato, come si suol dire con un parolone tedesco, Kammerspiel. In realtà è grandissimo cinema, una vicenda che dura 79 minuti, che prende pari pari con minime variazioni il testo della pièce teatrale di Jasmine Rezza, che è anche sceneggiatrice, co-sceneggiatrice con Polanski, e che dura 79 minuti nella realtà e dura 79 minuti nel cinema. Il cinema ha parecchi, non moltissimi, ma ha degli antecedenti, Mezzogiorno di Fuoco. Mezzogiorno di Fuoco inizia la vicenda alle 10:30 del mattino più o meno, e il culmine è High Noon, a mezzogiorno, quando arriva il treno e c'è il duello. Dura un'ora e mezza il film e dura un'ora e mezza circa la vicenda. Naturalmente sarebbe impossibile che tutte quelle cose li capitino veramente in un'ora e mezza, ma il film condensando, Zinnemann condensando, riesce a farlo. Ma più vicino a Polanski c'è l'Hitchcock di Nodo Scorsoio, quello in cui il professore invitato a cena scopre che nella cassapanca c'è un morto, quel morto che noi abbiamo visto mettere in quella cassapanca proprio degli assassini. Il film dura più o meno un'ora e mezza, la vicenda dura un'ora e mezza, si parte dall'assassinio e si arriva al finale con la scoperta. Quindi grandi antecedenti. Ma poi c'è un altro grande antecedente, ed è il Buñuel del fascino discreto della borghesia, perché dall'inizio alla fine questi quattro protagonisti cercano di uscire da questo appartamento fintamente a New York. Sappiamo che qualcuno ha detto che sono agli arresti domiciliari anche loro. Polanski gira a Parigi perché è impossibilitato a uscire dalla Francia per i noti problemi giudiziari e fa finta di essere a New York perché c'è un prologo e un finale appunto che si svolgono nella città americana. E queste quattro persone, come nel fascino discreto della borghesia di Buñuel, come i protagonisti di quel film, non riescono mai a uscire da questo appartamento. Questo è curioso perché il film viene indicato come drammatico, ma benché si rida a denti stretti, si ride molto. È curioso perché nel momento in cui io l'ho visto la prima volta, ma dopo 2 minuti stanno per uscire, ho detto ma mi avevano detto che si svolge tutto in un appartamento, com'è questa cosa? E invece l'uscita dall'appartamento è impossibile, impossibilitata, è un labirinto, no? Non si esce da questo arresto domiciliare. C'è un crescendo spettacolare, si parte da un very, very polite situation in cui queste persone sono molto tranquille, parlano un linguaggio assolutamente forbito e finisce pesantemente. Quindi niente, grande cinema perché? Perché Polanski ritorna sui suoi temi preferiti, quelli dei film polacchi dell'inizio, quelli di Repulsion che si svolgeva a Londra, quella dell'inquilino del terzo piano. E qui vorrei concludere con due, tre piccoli particolari eccezionali. A un certo punto escono dall'appartamento per andare sull'ascensore, c'è un vicino di casa che sente il baccano, mette fuori la testa. Riconoscetelo, è Polanski, ma viene ricacciato immediatamente dentro da Jodie Foster, per cui è come, ha detto ancora qualcuno, se l'inquilino del terzo piano rinato fosse a New York e guardasse questa situazione, che è in definitiva sempre la situazione di Polanski, persone chiuse in una situazione claustrofobica che tra virgolette danno il peggio di sé. Stavolta dando il peggio di sé, ci fanno anche ridere in certi momenti, pesantemente, ma ci fanno ridere perché riconosciamo proprio lo svelamento di un'ipocrisia profonda. Un inconsueto libro su un grandissimo regista, questa volta francese, cioè Robert Bresson, è quello di Alberto Corsani, Il Vangelo secondo Robert Bresson, il cinema come ricerca spirituale, pubblicato da Claudiana, 144 pagine, 12 euro. Grazie a Redenzione e Ispirazione, scrive l'autore, sono i concetti attorno a cui ruota l'esistenza dei protagonisti dei film di Bresson. E su questo ruota appunto l'analisi dell'autore che esamina i maggiori film del regista francese. L'autore protestante, il regista era cattolico, ma l'incontro è possibile, perché Bresson, scrive appunto Corsani, era sì cattolico, ma di un cattolicesimo avvezzo alle interlocuzioni con il protestantesimo, anche se con accenti diversi. Nella stessa collana vi segnalo altri due libri che affrontano il tema dello spettacolo e del cinema da un aspetto particolare. Il primo è quello di Brunetto Salvarani e Edoardo Semellini, Il Vangelo secondo Leonard Cohen, il lungo esilio di un canadese errante, pubblicato sempre da Claudiana, 176 pagine, 15 euro. Cohen, scrivono gli autori, è un poeta autentico ed è anche un mistico. Un mistico, spiegano, che ha affrontato a viso aperto le questioni della sessualità, le questioni di Dio, la complessità dei rapporti interpersonali e la solitudine riservata agli umani sulla Terra. E il terzo libro, ancora di Brunetto Salvarani, che è un teologo appassionato di fumetti, è il libro Da Bart a Barth. Barth è il figlio dei Simpson, Barth con l'H è il grandissimo Karl Barth, il grande teologo, e appunto questo libro ripropone una lettura teologica, niente di meno, che del ciclo dei Simpson, 160 pagine, 12 euro e 50 ancora di Claudiana. Come nota Joelle Dix nella sua prefazione, il Signore benedice la sublime arte di far ridere, perché può persino rivelarsi capace di generare la vita. E nei Simpson c'è materia per approfondire questo nesso tra vita e ironia e riso. I Simpson, per esempio, pregano. Per esempio lo fa Apu prima di cena con una preghiera adatta magari all'ora in cui ci troviamo. Buon curry, buon riso, buon Gandhi. Pappiamo. A questo punto... Il confettino. Vi segnalo, per restare in tema di spettacolo, il libro Paladini di Francia, testo e illustrazioni del grande Emanuele Luzzati, ricamato dal cartone animato del 1962, Gallucci, 13 euro. Un libro che piacerà molto anche ai genitori, che rimarranno come sempre affascinati dal tratto e dal colore del grande Luzzatti. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Buona domenica a tutti e appuntamento la settimana prossima.